child only yesterday, and now here we are, here on your wedding day. Like a million stars, you light up the sky. You are a miracle, I can't believe my eyes. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria. Un amor eterno, I'm forever. Cosa resterà per noi, la scia che navighiamo per infiniti mondi che non ci ricorderemo più, sono infiniti come noi. Se tu sei qui con me, se resti qui con me, I am here, always by your side. Apro le mie ali nel silenzio e ti porto via nel vento fino al cielo. Ma le stelle sono sempre lì nel cielo. I am here with you, always. música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Non so cosa sia la fedeltà. La ragione del mio canto, che resistere non può ad un così dolce pianto che mutò l'amore mio. E se anche il sorgere del sole ci trovasse ancora insieme, per favore dimmi no, rende stupidi anche i saggi l'amore, amore. Il libero il mio peso c'è. cerco chi non c'è dentro i miei perché, ma non ho più cuore quello che ora c'è. È pura noia, miele impuro senza te. Lassù, specchio della città, in un tempo senza età, e stento a vivere, muore solo ciò che fiorirà. Sognando che sei qui. dans cette nuit si sublime, je vais voir passer l'étoile, celle qui raconte à nos fils qu'il n'y a qu'un idéal, celui de rester sincère et garder l'esprit pur, les pieds plantés dans la terre, les yeux vers le futur. Dans cette nuit si sublime, je cherche des conseils. Un souffle léger du vent, une voix qui m'appelle. Comment trouver le courage de suivre ce mirage? Pour un cœur comme égaré devant le beau voyage. Toujours incertain, comme la nuit laissant place à la lumière du jour. J'aimerais savoir m'échapper sans penser au retour. Ai-je encore assez d'espoir pour tenter les voyages loin de ce monde qui parfois nous retient en Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Porto en me, tra sabbia e polvere, un peso que non passerà. Vagherò lasciando cenere, e intanto il tempo passerà. Ti cercherò senza arrendermi, forse sbaglierò, ma saprò ritornare a salire. Santi uomini, forte poi un vento si alzerà e quelle orme cancellerà. Ti cercherò, non mi perderai nella notte che c'era stelle cadenti. Dove puoi Scendi donna livida e distante dentro il tempio del mio cuore, espandi l'anima cangiante in questo nomade cantor e accogli il mondo dentro un tempo che non c'è. Stai crescendo in fondo a quella voglia di sentirti mia. Stai varcando il segno ardendo tra vertigine e follia, tra vertigine e follia, nella verità mi salverai. Mai vorrai come può vedrai, tu vali sì per me qualcosa più dell'oro, qualcosa come un'alba che io aspetto. If only we could turn back time, back to the day we said goodbye, maybe your heart would still be mine, my love, if only. Don't they say when you find keep it close, treasure it like the sunset, like something more than gold. And didn't we almost know it? Didn't we almost have it all before we let go? If only we tu che muovi il mondo, tu che soffi forte il vento e il grano. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. È troppo tempo che non siamo soli io e te, non chiedo luce ormai, quindi il mio sole sarai. Siamo gli stessi qui, decisi, liberi, intanto parlami, se cerchi le parole, provati a... Chiederei di più, sei la sola, senza un perché, amo soltanto te. E lo sapevo, ma oggi è quel giorno che aspettai. Cura e pazienza sei, da sempre sogno di noi. Siamo gli stessi, sì, decisi, liberi, soltanto seguimi. Se cerchi le parole, provati a... Chiederei di più, sei la sola, senza un perché, amo soltanto te. Ho spento il cuore, che ho smesso di sognare un nuovo amore. Il dubbio dentro me, e ho smesso di sperare, ma un tratto tu risvegli nel profondo un fuoco che mi accende. I return to love, e rischierò per regalarti il mondo. And I return to love, e resterò per costruire un sogno. One more time. need. You're worth a leap of faith. I'll return to love. I'll risk it all to see the world that we make. I'll return to love and take the fall as if my heart cannot break. Sogna gli occhi.